Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus Meassa e Larosciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Tanto per cominciare, dei due antivirus questa mattina ce n'è solo una, lo sapete ormai, con Mauro Meazza. Può capitare in queste settimane che ci alterniamo alla conduzione del programma, e quindi questa mattina me ne incarico totalmente io. Mauro, lo salutiamo e peraltro vi farò compagnia anche questa sera a Focus Economia, perché abbiamo cominciato con il fly away. Allora, non basta la crisi pesantissima a mettere in ginocchio l'attività delle compagnie aeree, adesso ci si mettono anche gli hacker, che chiaramente approfittano di questa situazione di debolezza generale del settore per andare a caccia di dati sensibili dei clienti, e succede ad EasyJet. Un attacco informatico molto sofisticato sarebbe stato appunto subito dalla compagnia aerea EasyJet, presa d'assalto dagli hacker, i quali hanno potuto accedere ad email ed informazioni di viaggio di circa 9 milioni di clienti e ai dati anche delle carte di credito di almeno 2 milioni di questi, 2 milioni e 200 mila. Noi abbiamo fermato gli accessi non autorizzati, hanno detto appunto fonti da EasyJet, stiamo già contattando i clienti coinvolti, è stato subito offerto loro il supporto, ma la compagnia aerea low cost britannica, appunto già sotto pressione a causa della pandemia, ha fatto sapere che non sembrano esserci indicazioni di un uso improprio delle informazioni sottratte. Evidentemente se ne sono accorti in tempo e quindi sono già state avviate indagini sull'accaduto, comunicando quanto successo alle autorità competenti. La società ha detto che sta appunto contattando tutti i clienti colpiti per consigliare loro la massima prudenza. Quindi, se vi dovesse arrivare qualche email strana con un riferimento ad un volo magari prenotato in passato ad EasyJet, insomma, fate attenzione, perché potrebbero esserci proprio dietro questi truffatori. E insomma, anche in tempi di coronavirus, la madre dei furbi è sempre incinta, i serpenti corallo, come direbbe Mauro, sono sempre in agguato. Ma oggi è mercoledì, e come ogni migliore tradizione che si rispetti, è il mercoledì naturalmente del lavoro. Allora, noi ricorderemo intanto un anniversario molto importante. Ricorre oggi il 50° anniversario della pubblicazione dello Statuto dei Lavoratori. Il nome con cui è nota la legge 300 del 1970, che riguarda appunto proprio le norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori. Faremo un punto su questo anniversario così importante in un momento in cui è molto importante anche parlare di lavoro nelle sue diverse forme, oltre che nella drammatica crisi che sta vivendo. C'è un evento importante questa sera organizzato dai giuslavoristi italiani, e tra i vari partecipanti c'è anche il vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Orioli, con il quale fra un po' commenteremo questa ricorrenza. Per quello che riguarda invece il tema di approfondimento, parleremo di una misura importante, contenuta, molto attesa e contenuta finalmente nel decreto rilancio, cioè il bonus fino a 1000 euro per sostenere i lavoratori domestici. Finalmente arriva anche questa provvista, questa provvidenza, questo sostegno per questa categoria di lavoratori, per i quali ci avevano scritto molte famiglie e datori di lavoro di queste persone. E visto che molte non hanno potuto lavorare in questo periodo a causa dei provvedimenti di isolamento, e allora molti sono rimasti senza stipendio. Molte famiglie si sono incaricate anche si sono assunte il ruolo di ammortizzatori sociali in questa fase, quindi hanno fatto loro fare tutte le ferie, smaltire tutti i permessi che si potevano smaltire, ma poi chiaramente per molte persone sono rimaste senza stipendio. Per cui arriva la provvista dello Stato. Con l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro cercheremo di capire, anche se ancora non abbiamo le istruzioni dell'INPS, come sarà possibile fare la domanda per ottenere questo sostegno, quali sono i requisiti che bisogna avere per poter fare naturalmente richiesta. E poi, come punto della situazione iniziale, torneremo su BTP Italia, terza giornata. Anche oggi vedremo se c'è un nuovo boom di ordini, replicando così quello che si è già verificato lunedì e ieri. Per le domande che come sempre ci rivolgete, potete utilizzare i canali soliti, l'800 24 00 24, il numero verde che vi consuete che vi consente di intervenire in diretta, e naturalmente le domande che accettiamo oggi sono proprio quelle sul bonus per sostenere i lavoratori domestici. Vi siete trovati anche voi in difficoltà per via della riduzione dell'orario di lavoro domestico che si è resa necessaria in questi mesi di emergenza? Allora raccontateci com'è andata sia dal punto di vista del lavoratore che del datore di lavoro, e ci confronteremo appunto più tardi con Assindatcolf. 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp, come li chiama Simone Spezia, gli audio, i WhatsApp audio, mi pare che li chiami così, l'ho sentito stamattina, e poi siamo sul mondo social e naturalmente ci potete intercettare anche su tutte le varie piattaforme. Detto questo, caro Peter, ringraziando Marco Lombardo in remoto, Elisabetta Fusconi questa mattina assistente di prossimità, partiamo. Ci dicono spesso di lavarci le mani, ma poi ci ascoltiamo Meazzero Shani. Allora, ci tengo sempre particolarmente alla segreta del giornale radio del risparmio, soprattutto a questa che ha confezionato appositamente per noi un grandissimo attore italiano che si chiama Bob Messini. Lo conoscerete tutti senz'altro, per chi non lo conoscesse ricordo solo che può andare a rivedersi La pazza gioia, il film di Paolo Virsì, dove lui ha un bellissimo ruolo molto molto divertente, e tra le altre cose che ha fatto ne ha fatte tantissime nella sua vita. Allora, però, noi torniamo al nostro giornale radio del risparmio salutando Bob. Allora, c'è questa notizia che abbiamo voluto condividere con voi perché sarebbe finita l'attenzione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato la disavventura capitata ad un consumatore che si è rivolto ad un'associazione dei consumatori Codici, dopo che praticamente aveva presentato alla società con la quale aveva contratto un prestito, una grande società di credito al consumo, aveva presentato la richiesta di sospendere le rate relative ad una polizza. Allora, in questo momento, come sapete, c'è stato questo protocollo d'intesa che è stato siglato dalle associazioni dei consumatori e dall'ABI e da Assofin, che è la società che rappresenta tutti gli intermediari finanziari, le società che erogano prestiti, quindi le società di credito al consumo, proprio per consentire alle persone in difficoltà di sospendere anche i prestiti per un massimo di 6 mesi, o a seconda anche della società si può chiedere un'estensione della sospensione fino ad 1 anno. Però che cosa è successo? Che la persona che ha richiesto la sospensione a questa società si è trovata in una brutta disavventura, perché questa persona, racconta Codici, che cosa ha fatto? Prima ha inviato una mail ordinaria come chiesto dalla società, poi una PEC, poi ha compilato un modulo online che non ha rilasciato nessuna ricevuta. Ma nel frattempo che cosa è successo? Che la persona, essendo impossibilitata a pagare, ha ricevuto la sgradita visita da parte di una società di recupero crediti. Quindi questo è quanto sta capitando, per cui in una fase in cui abbiamo molta pazienza con tutti e dobbiamo cercare di comprendere anche le situazioni di difficoltà in cui molte famiglie si trovano e quindi fanno una richiesta di sospendere dei pagamenti, mutui e prestiti, ecco qua che qualche società non guarda in faccia a nessuno e manda direttamente la società di recupero crediti. Ora io mi appello al buon senso e anche alla reputazione di questa società, io non voglio dire il nome, ma è una molto grande, per cui per cortesia cercate di valutare con un po' di velocità le pratiche delle persone e capire quanto siano in difficoltà. Non volete sospendere è un conto, ma che addirittura si mandi in questa fase la società di recupero crediti ci sembra davvero inaccettabile, e questa è la prima notizia. Poi, visto che oggi appunto parliamo di lavoro, vi vorrei raccontare anche quanto sta facendo Assolavoro, che è l'organizzazione rappresentativa appunto di tutta una serie di società, di agenzie per il lavoro, che ci racconta oggi come il 100% dei lavoratori in somministrazione sono proprio quelli che hanno un posto di lavoro grazie all'agenzia del lavoro che paga loro lo stipendio, firma per loro i contratti. Il 100% dei lavoratori in somministrazione interessati hanno ricevuto puntualmente l'accredito degli ammortizzatori sociali anche a maggio in relazione al mese di aprile. Si tratta di ben 127.385 lavoratori per 13.702.376 ore impiegati attraverso 87 differenti agenzie per un lavoro, e sono stati erogati complessivamente quasi 137 milioni di euro. Quindi da questo punto di vista ci sembra che in un quadro in cui molti ammortizzatori sociali non stanno arrivando dando ai lavoratori che ne hanno legittimamente diritto, in questo campo ci sembra che invece tutto funzioni piuttosto bene. Ricordo come ultima notizia che oggi con il Sole 24 Ore è in edicola la preziosissima guida al 7:30, 80 pagine, di un fascicolo molto ricco con tutte le informazioni, a partire dall'utilizzo della precompilata, il regime degli esoneri, insomma tutte le notizie che abbiamo bisogno di sapere in questo momento per orientarci con la dichiarazione dei redditi. Il fascicolo è in edicola oggi, costa 50 centesimi insieme al prezzo della copia delle Sole 24 Ore. Adesso andiamo per qualche minuto in borsa per capire come sta andando stamattina il BTP Italia. Dillo a due di denari. Buongiorno Debora e Mauro, vi ascolto sempre. Volevo dirvi se i cosiddetti bond perpetual che avrebbero acquistato gli italiani, perché non sarebbero stati meglio che non i BTP Italia? Grazie. Sì, è un deal a due di denari, ma che ci serviva per introdurre anche la parte sulle BTP Italia, di introdurre il ritorno di Pietro Poletto, responsabile dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Le curiosità degli ascoltatori su questa operazione sono veramente tante. Peraltro, Poletto, adesso le faccio fare anche un po', anche se non è il suo lavoro, l'attività di consulente, perché ci sono molti ascoltatori che ci hanno scritto. Mi ha colpito molto la mail che ci ha mandato una mamma in questi giorni, che ci ha detto: io non ero molto preparata sulle questioni finanziarie, ma mi sono data da fare, adesso mi sto anche appassionando e quindi sto studiando il funzionamento del BTP. E lei ci ha detto: però ho capito che fra 5 anni, quando il titolo andrà a scadenza, per avere effettivamente un guadagno interessante dovrò investire un importo rilevante, almeno secondo le mie possibilità. Ma diciamo che effettivamente noi abbiamo capito che non è un titolo dal quale dobbiamo immaginare di avere chissà quale guadagno. Intanto il BTP, soprattutto questa emissione, ha una finalità specifica, una finalità esplicita, e soprattutto dobbiamo anche ricordarci che i titoli di Stato tutti negli ultimi anni hanno addirittura riconosciuto rendimenti negativi, perché non è esattamente un porto verso il quale approdare per ottenere dei guadagni mirabolanti, a patto che se ne trovino sul mercato. Quindi uno, consideriamo anche questo, cerchiamo di non avere un approccio speculativo al mercato finanziario, perché poi ci facciamo male, e magari in un'altra puntata vi racconto anche quello che è successo ad un ascoltatore che ci ha scritto, che ha investito in obbligazioni di un ente sovranazionale espresse in lira turca e in questi giorni è in grande difficoltà perché c'è la sospensione di questi titoli. Quindi, chiusa la parentesi, Poletto, ho fatto il mio editoriale di questa mattina, lei ha il compito intanto di raccontarci come stanno andando questa mattina le sottoscrizioni. Ieri altri 4 miliardi e 700 milioni di euro rastrellati. E oggi sta andando ancora molto bene. In 2 ore abbiamo fatto un altro 1,5 miliardi, per cui abbiamo sfondato la quota dei 10 miliardi. Per cui devo dire continua l'onda lunga del successo di questa missione, e penso che anche domani, una giornata dedicata agli investitori istituzionali, ci sarà una forte richiesta. Certo, anche diciamo, oggi ci diciamo può dire che, esatto, l'importo medio del contratto, che cosa state vedendo anche relativamente a queste curiosità che sono molto interessanti. Esatto, è in linea con la size media che abbiamo visto negli ultimi giorni, intorno a 37.000 euro. Mm-hmm. No, questo è interessante perché, e forse l'ho detto anche in questi giorni, quando abbiamo presentato l'operazione con Davide Iacovoni, il capo della direzione debito pubblico del Ministero dell'Economia, ragionavamo sul fatto delle aspettative su questa operazione, perché avevo chiesto a Iacovoni, insomma, c'è molta apprensione rispetto al lancio di un'operazione come questa, perché in questo momento molte famiglie, in realtà, il risparmio magari faticosamente accantonato in passato, lo stanno utilizzando per fronteggiare questi 2-3 mesi di grande difficoltà. C'è chi ha perso il lavoro, chi lo ha sospeso, la cassa integrazione non arriva ad accontentare, ad esaudire tutte le esigenze del bilancio della famiglia, quindi magari qualcuno il proprio risparmio lo utilizza diversamente, forse non ha proprio nella testa di dirottarlo nel BTP Italia. E invece, come dire, che cosa ci sta raccontando questo boom secondo il suo punto di vista, Poletto? Ma ci sta raccontando che intanto BTP Italia come struttura, una struttura che piace, continua a piacere. Secondo me la cosa che, al di là della struttura del premio fedeltà che è stato raddoppiato, che solo BTP Italia, nel panorama dei titoli di Stato, è l'unico strumento che lo riconosce, ma il fatto che sia, come dicevamo anche ieri, un titolo cosiddetto di scopo, che si sappia già in anticipo dove i soldi raccolti vanno a finire. Secondo me la gente si sente più, come dire, motivata nell'investire in qualcosa che ha una destinazione ben definita, come se ci fosse stata un'emissione per il ponte di Genova o quant'altro. Credo che si possa anche dal punto di vista emozionale essere molto più partecipi nell'investire in qualcosa dove io so a priori dove questi soldi vanno a finire, rispetto a un generale rifinanziamento. Senta, se un suo amico durante una cena, a patto che considerato che adesso non le possiamo fare, ma magari appunto una cena a distanza con il web, la chiamasse e le chiedesse, ma insomma per avere magari un guadagno discreto fra 5 anni, sempre considerando che si può guardare anche all'aspetto un pochino del rendimento, della remunerazione, come possiamo istruire i nostri ascoltatori a fare un calcolo sul funzionamento di questa operazione, partendo dall'ipotesi che io ho da investire 1.000 euro, so che questo rendimento minimo garantito è in questo momento individuato all'1,40% più l'inflazione che verrà conseguita nel periodo, e che però domani sera il Tesoro potrebbe rivedere anche al rialzo il rendimento a seconda delle condizioni di mercato, a seconda appunto dei parametri fissati dal Ministero. Come possiamo aiutare i nostri ascoltatori a fare un calcolo sul rendimento finale appunto del titolo, Poletto? Allora, intanto sconsiglierei di investire 1.000 euro, perché 1.000 euro, come dire, è una cifra che non è strutturalmente nel dossier titoli. Gestire un titolo con 1.000 euro di nominale è veramente un problema. Certo. No? Questo è il primo tema. L'altro tema fondamentale è che ognuno deve farsi un proprio portafoglio di investimento virtuale, dove ci sia un asset allocation, che vuol dire una diversificazione degli investimenti ben equilibrata, ma basata sulle proprie esigenze, della propria famiglia, della propria propensione al rischio. Questo è fondamentale, perché non è che può dire ho sentito l'amico che mi ha detto che ha fatto 10 piuttosto che 20. Parole sante che noi sposiamo fondamentale tanto. E vale il discorso della lira turca che citava lei prima. Sì. È ovvio che uno vuole rendimenti maggiori, si prende dei rischi maggiori. Poi non si può sorprendere se poi ci sono problemi in un paese che è cosiddetto emergente, ha problemi di altra natura. È tutto un problema di rischio e rendimento e di propensione al rischio dell'investitore. Queste sono domande che uno deve farsene prima di investire, non dopo. Esatto, ammettendo che uno se le sia fatto e quindi facendo un calcolo ci aiuta a farlo. Allora, non le piacciono 1.000 euro, partiamo da 10.000, così è tondo ed è più facile? Ma 10.000, investe 10.000, c'è la cedola semestrale minima garantita del 1,40 più la rivalutazione da qui a 5 anni dell'inflazione, qualora ci sia. E ovviamente speriamo che ci sia, perché vuol dire che c'è anche una ripresa economica. Esatto, quella questo, buona. Da questo punto di vista è anche una sorta di copertura, no, dell'investimento rispetto come dire, a una ripresa inflattiva. No? Per esempio, uno che ha un mutuo a tasso variabile, se i tassi si rialzano, evidentemente va a pagare di più. Un investimento di questo tipo ha anche questa copertura, perché la cedola viene rivalutata in base all'andamento dell'inflazione da quei 5 anni. In più, il fatto di avere il premio fedeltà è anche un ulteriore beneficio. Beh. Ricordiamo che questo è un titolo quotato, è quotato sul mercato di borsa, per cui qualora nel corso della vita ci sia la sovraperformance, l'investitore può anche decidere di vendere. Certo, vendere, esatto, no? Esatto, disinveste, rinuncia al premio fedeltà, ma insomma magari ha fatto una scelta con un obiettivo diverso. Io devo ringraziare Pietro Poletto per essere stato con noi, sicuramente ci risentiremo prossimamente, peraltro sul tema del rapporto con un potenziale bond perpetual, perché questa scelta non è stata fatta, ma insomma viviamo anche un contesto di crisi molto particolare. Adesso io non escluderei, in totale non è una notizia quella che sto dando, è proprio una chiacchiera da bar che sto facendo in questo momento, ma insomma vediamo che scelte si prenderanno, chissà mai che il Tesoro non consideri anche una possibilità di questo tipo, per cui per adesso il Ministero, ha già comunicato nelle linee guida che un'altra emissione speciale verrà fatta entro l'estate, strumenti nuovi dedicati al retail, per cui come dire non è semplicissimo come dire fare cose nuove che escono dall'ordinario, no? Specialmente una situazione emergente, però i tecnici ci stanno lavorando. Noi stiamo assolutamente lavorando. C'è anche un'ipotesi di un nuovo intervento di cassa depositi e prestiti, magari con un buono fruttifero speciale. Insomma, le ipotesi sul campo sono tante e noi, come abbiamo fatto con questo BTP, non prima avremo i dettagli, ve li spiegheremo tutti. Per gli ascoltatori che ci chiedono ma che cos'è questo BTP, come funziona, guardi, noi abbiamo pure le critiche al contrario, che ne parliamo anche troppo, per cui dico all'ascoltatore che può andare sul sito di Radio 24, prendere i podcast della nostra trasmissione di lunedì scorso e di lunedì precedenti ancora, perché avevamo proprio il Ministero del Tesoro che ci ha spiegato tutto. Grazie Poletto, buona giornata. Grazie domani. A voi. Buon lavoro. Buon grazie. Lavoro. Il prossimo, la prossima rubrica. Dov'è il nuovo lavoro? Le donne delle zone agricole di Avellino sono scese anche loro nelle strade, volti segnati e decisi, che conoscono la quotidianità della fatica e del sacrificio familiare. All'intollerabile disagio nelle fabbriche e nelle campagne si salda quest'anno il disagio drammatico delle scuole e delle università. Il movimento operaio e popolare si salderà naturalmente con l'altra componente decisiva, quella studentesca, che già in primavera ha fatto sentire il peso della sua forza e della sua protesta. A questa estate calda seguirà un autunno ancor più scottante. Allora, sono tutte cifre tonde. La legge numero 300 del 1970, datata 20 maggio, è lo Statuto dei Lavori. È la legge che appunto introduce nel nostro ordinamento lo Statuto dei Lavoratori, un documento molto importante che contiene tutte le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori. È una legge che si articola in 6 titoli che racchiudono nell'ordine norme molto importanti sulla libertà, la dignità dei lavoratori, la libertà sindacale, l'attività sindacale. Un documento partorito, come avete sentito, lo abbiamo ricordato nel nostro brano, tratto da alcuni video storici molto importanti, che in qualche maniera venne partorito in un momento caldissimo della nostra storia, il famoso autunno caldo che praticamente si consumò nel nostro paese proprio 50 anni fa, e quindi ha la mia età questo avvenimento. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Non ho nessun problema a raccontare quanti anni ho, perché tanto lo sa tutto l'universo. Senti, allora, stasera peraltro c'è un evento al quale parteciperai, che potremo seguire solo in videoconferenza, organizzato dagli avvocati giuslavoristi italiani, e quindi un'occasione per ricordare questo compleanno, celebrare questo compleanno in un momento estremamente delicato per il lavoro italiano, per i lavoratori italiani. Forse, come dire, il tema della rappresentanza sindacale, della tutela sindacale sembra addirittura secondario. Oggi il tema è il lavoro che si perde, e si perde anche da un giorno all'altro a causa di una pandemia. Da un giorno all'altro bisogna riabituarsi a lavorare con modalità e strumenti diversi rispetto banalmente al giorno prima: da casa, smart working, lavoro agile. Qual è il valore in questo momento di un documento come questo, Alberto? Ma diciamo che nel 70 si diceva che la Costituzione entrava in fabbrica, perché effettivamente con lo Statuto dei diritti dei lavoratori si dava applicazione all'articolo 1, quello che vede la Repubblica fondata sul lavoro, appunto gli si dava la dignità che meritava in un provvedimento legislativo. Arrivava dopo l'autunno caldo, l'abbiamo sentito, il famoso 68, 69, in un anno 220 milioni di ore di sciopero, tanto per dirne una, c'erano continuamente conflitti sociali, licenziamenti Fiat, la difficoltà di arrivare al contratto dei metalmeccanici, insomma, tensioni sociali. Erano questi i motivi per cui i lavoratori scendevano in piazza, come il brano in cui abbiamo sentito prima, dove peraltro si parla molto anche già di donne, e quindi anche per quello abbiamo preso proprio quel brano, perché si parte proprio con riferimento alle donne. Sì, Alberto. Infatti avete fatto bene. Allora appunto le condizioni esterne erano terribili, nel senso c'era ancora il licenziamento ad nutum. Invece viene stabilito l'articolo 18, che prevede il reintegro sui luoghi di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, che tanto dividerà poi anche la discussione successiva. Cosa rimane oggi? Beh, diciamo che è uno statuto che ha 50 anni, ma effettivamente li dimostra tutti, diciamo la verità. Ha subito i colpi di un referendum, è stato modificato in almeno 4 articoli in modo abbastanza radicale. È tutto centrato sul lavoro fordista, taylorista, del lavoro dipendente, il prototipo proprio dell'operaio massa, quello lì che adesso non c'è più. E quindi chiaramente oggi ci sono esigenze molto diverse, il mondo del lavoro è estremamente frammentato, è continuamente massacrato dagli impatti devastanti delle tecnologie che ne rubano anche ambiti di operatività, diciamo la verità. I robot spesso fanno lavoro che prima era umano e richiedono un lavoro umano molto più qualificato per gestirli, quindi una modifica continua del paradigma tecnologico, del paradigma formativo, che è la sfida per i nostri giovani, soprattutto che si affacciano a questo mondo del lavoro così difficoltoso e così complicato, anche perché mette in competizione pezzi interi del mondo, diciamo così, generazioni intere di diverse parti del pianeta che si trovano per la prima volta a competere sul mercato del lavoro che era globale, perlomeno fino a prima del Covid-19. Ecco, poi vedremo come ne usciremo e come poi la divisione internazionale del lavoro approderà nella sua configurazione definitiva. Quindi insomma avrebbe bisogno di un piccolo restyling, volendo, avendo anche la condizione un po' emotiva in questo momento per poterla fare questa operazione. Quello sicuramente, effettivamente la discussione anche tra i giuslavoristi è di farlo diventare da statuto dei lavoratori a statuto dei lavori, perché effettivamente oggi la configurazione dei lavori è molto diversa. Il semplice muraglione che divide il lavoro subordinato dal lavoro autonomo, che è il classico discrimine che usano i giuslavoristi hanno usato per decenni, non è più così impermeabile, perché le forme di lavoro di adesso, legate alla gig economy, legate alla gestione degli impieghi attraverso l'algoritmo, mescola continuamente forme di subordinazione con forme di autonomia e mette palesemente in crisi anche la dottrina, la giurisprudenza, che si cimenta poi sul tentativo di trovare quale sia il confine. A volte ho la sensazione che trovare il confine, in questo caso del lavoro tra subordinato e autonomo, sia un po' come andare a cercare qual è il confine dell'onda del mare, diciamo, sì. Mettersi sulla spiaggia e tirare la riga effettiva, non ci riuscirai mai, perché è un continuo andare avanti e indietro. Ecco, questa però è la grande sfida per chi si occupa di lavoro e per chi si occupa di regole del lavoro, posto che la vera eredità dello Statuto dei lavoratori, che deve ancora rimanere e rimarrà per sempre, è che qualunque forma di approccio a questo tema deve partire dalla dignità del lavoro, che non è, può sembrare una cosa retorica o banale, ma non lo è, francamente, non lo è proprio. No, infatti, basti vedere tutto la coda di polemiche che ha accompagnato il dibattito sulla regolarizzazione dei lavoratori immigrati. Poi è chiaro che lì c'è tutto un altro versante politico, di interessi di altra natura, però effettivamente ci sembra che anche questo aspetto sia quello portante, no, di quel dibattito, e da lì abbiamo capito di nuovo come siamo tante volte un pochino indietro rispetto alla considerazione di questo aspetto nell'argomentare le tematiche del lavoro. Alberto? Assolutamente, però appunto, se diamo concretezza la normativa fattuale, come diceva Giugni a suo tempo, che appunto partiva proprio dall'analisi delle dinamiche sociali così come si venivano creando nelle configurazioni dei conflitti capitale e lavoro, ma in modo molto concreto, entrando dentro alle singole situazioni per trarne spunti per creare normative, norme che fossero però legate ai fatti, non il bello scrivere giuridico legato ad architetture solamente teoriche del tutto svincolate da come sono le realtà. Ebbene, quel tipo di metodo, che poi è banalmente il metodo riformista classico, che va per piccoli passi ma è in continuo, è quello che bisogna applicare adesso, mantenendo questa bussola della dignità del lavoro, che non sempre effettivamente è la bussola a cui si guarda quando ci si creano poi situazioni operative e concrete di modalità di impiego. Allora, peccato che io stasera faccio focus economia, non vi posso seguire, altrimenti mi sarei collegata sul sito dell'AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani, hanno anche una pagina Facebook e quindi manderanno in diretta l'evento e questo confronto con tanti e tante professionalità, con Alberto Orioli tra i tanti altri. Grazie Alberto per essere stato con noi, buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Lo so che è molto tardi, cara regia, ma adesso molto regolarmente faccio la borsa e poi rientriamo con il bonus per i lavoratori domestici. Pecunia non OLED. Ciao, sono Marco da Roma, I love my radio. Ciao, sono Linda da Follonica, I love my radio. Ciao, sono Michela di Milano, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 35% di persone la ascolta per più tempo. Il 43% la ascolta da supporti digitali e nella fascia 14-44 anni raggiunge l'88% della popolazione. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta di denari. Ecco Eccoci ritrovati in diretta, un tema che adesso affronteremo molto rapidamente in 20 minuti dandovi tutta la sintesi delle informazioni più importanti che dovete sapere. Allora, il decreto rilancio contiene finalmente tutte le misure necessarie appunto a erogare l'indennità di 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, in totale di 1000 euro per i lavoratori domestici colpiti dall'impatto della crisi. Una norma che ha fatto fatica a trovare uno spazio negli ultimi provvedimenti, finalmente ci riesce nel decreto di rilancio, ma è stata appunto promessa sin dall'inizio della crisi, era una categoria per la quale non si riusciva a capire come potersi organizzare per ovviamente garantire anche loro una sorta di, anche a questa categoria appunto, un po' di sostegno, visto che molti lavoratori hanno dovuto interrompere il rapporto del lavoro provvisoriamente appunto con i propri datori di lavoro, con le proprie famiglie, e quindi è chiaro hanno avuto le difficoltà di tutti quanti. Per cui facciamo un punto della situazione rispetto a quello che sappiamo fino a questo momento, perché ancora tutte le istruzioni su come si potrà richiedere questo bonus non le abbiamo, ma qualche cosa lo sappiamo e ce lo racconta Andrea Zini, vicepresidente di Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro familiari per l'appunto. Zini, bentornato e buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli radioascoltatori. Bene, lo so che sì, ogni tanto ci inceppiamo, ascoltatori. Senta, allora, beh, intanto questa è una buona notizia, finalmente abbiamo nero su bianco nel decreto rilancio appunto il provvedimento. Peraltro avevo anche con dettaglio il numero dell'articolo che adesso mi sono perso, Mauro Meazza me l'aveva. Eccolo qua, l'articolo 86. 85. Io ho il bollinato sotto gli occhi della ragioneria e quindi... è probabile che forse sia saltato un altro articolo. Allora, no, perché noi abbiamo praticamente, c'è l'articolo 86, indennità per i lavoratori domestici, al comma 3 praticamente c'è poi un riferimento all'articolo 85 del presente decreto. Insomma, in quell'area lì, 85-86, per chi fosse interessato, proprio chi fosse un depravato della norma, ma a noi interessa la sostanza, Zini. Allora, esatto. Che cosa sappiamo con precisione? Allora, intanto sappiamo che anche il lavoro domestico, dopo tante nostre esistenze, ma non solo nostre, di tutte le parti sociali del settore, finalmente ha una cassa integrazione. Chiamiamola in questo modo, anche se è molto semplice e in embrione ancora. Un ammortizzatore sociale. Esatto, finalmente c'è questa cosa che mette al tranquillo tutte quelle famiglie che hanno sospeso il rapporto di lavoro, che fortunatamente non hanno licenziato, perché molti hanno licenziato per paura che venissero chieste le retribuzioni anche per i periodi di fermo, come dovrebbe in teoria succedere se la prestazione non è voluta dalla famiglia o da qualsiasi altro datore di lavoro. E la pandemia, il coronavirus, era una giusta causa per interrompere il rapporto di lavoro con queste persone? Ma abbiamo un vantaggio nel nostro settore, non è stato è stato escluso dal blocco dei licenziamenti e quindi noi non abbiamo un problema di licenziare anche in questo periodo, visto che è un rapporto estremamente fiduciario. Ma detto questo, purtroppo molti hanno licenziato e questo non va bene per il proseguio del tempo che sta venendo, perché riprende il lavoro, c'è maggiore necessità di assistenza alla casa, soprattutto alle persone, e quindi aver rinunciato a un rapporto di lavoro e doverlo andare a ricostituire, non so in che buon animo possa essere il lavoratore che nel momento della necessità si è visto tagliare qualsiasi ponte. La buona notizia è che questo assegno, essendo estremamente particolare, questa indennità copre anche i licenziati. La condizione è che alla data del 23 di febbraio vi siano uno o più contratti di lavoro di una durata complessiva superiore a 10 ore. Poi, se il lavoratore è stato licenziato, se è stata percepita anche la NASPI, come giustamente chiede un lavoratore licenziato, dalle nostre notizie, che ovviamente non sono scritte nell'articolo 85, ma ha diritto alla indennità. Perché mi pare che una prima interpretazione della norma appunto indicasse che il bonus spettava chi non fosse percettore della NASPI, per esempio, e non beneficiasse del reddito di emergenza. Invece, esatto. E invece questa non seconda è una condizione valida, questa seconda è valida. Uh-huh. Allora, i paletti, diciamo come è strutturata in generale la norma, tutti i lavoratori che avevano un rapporto o più rapporti di lavoro subordinato di tipo domestico, un lavoro domestico in essere alla data del 23 febbraio e facevano più di 10 ore, in teoria anche 10 ore e un quarto, ma diciamo 11, perché secondo, se non ricordo male, all'INPS si denunciano ore intere, ha diritto a questa indennità. Poi cosa sono? Quali sono i paletti? Questa indennità che cos'è? Sono 500 euro per il mese di aprile, 500 euro per il mese di maggio. Mm-hmm. Vengono richieste in un'unica domanda, quindi l'erogazione sarà di 1000 euro immediatamente, e vengono richieste tramite patronato. Non so se possa essere fatto anche direttamente dal lavoratore, questo non è esplicitato. Io ritengo di sì, però teniamo presente che la richiesta tramite patronato non comporta nessun onere, perché sono prestazioni che i patronati devono rendere gratuitamente. Quindi non direttamente all'INPS, Zini? Non cioè, secondo me ci sarà anche la possibilità col PIN individuale di accedere e chiedere. Credo che molto probabilmente tantissimi lavoratori, soprattutto quelli non comunitari, che hanno difficoltà anche con la lingua, abbiano maggior vantaggio andare direttamente ai patronati, per l'assistenza, ai centri di assistenza fiscale. Ottimo, Zini, ci fermiamo un attimo perché abbiamo il traffico, ma torniamo tra poco e abbiamo già, come può immaginare, moltissime domande. Ne leggo una, così lei ci pensa per la risposta. Faccio la colf 15 ore a settimana, ho fatto tutto aprile, ferie obbligate, lunedì 18 maggio con la riapertura delle attività economico-produttive ha ripreso anche questa gentile signora, ho ripreso a lavorare. Come faccio per le altre due settimane per farmele pagare? Qua. Adesso ci pensiamo un attimo, va? A tra poco. Due di denari. Allora, Andrea Zini, eccoci di nuovo a noi, vicepresidente di Assindatcolf, l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestici, dei datori del lavoro domestico, non so mai come declinarla esattamente. Delle famiglie datrici di lavoro. Ecco, esatto, tagliamo la testa al toro come si dice. Allora, come possiamo rispondere all'ascoltatrice che ci ha scritto poco fa? Il datore di lavoro, in questo caso la famiglia, si è comportata correttamente come poteva fare, intanto ad aprile, non potendo andare a lavorare, aveva le ferie e gliela fate smaltire tutte, come stiamo facendo tutti quanti, quindi se ogni tanto non sentite me o Mauro, Sebastiano, è perché anche a noi tocca la stessa identica situazione, quindi non è una, come dire, condizione che riguarda poche categorie di lavoratori. Le aziende lo stanno chiedendo a tutti. Zini. Sì, la cosa particolare di questa indennità è che per essere veloce e immediata e semplice nella gestione ha accontentato qualcuno e scontentato qualcun altro. La signora è tra quelli molto accontentati, perché in realtà non viene richiesto che il rapporto sia stato sospeso, sospeso parzialmente o cessato. Viene detto solamente che ci doveva essere un rapporto in essere il 23 di febbraio. Quindi anche quelli che hanno lavorato tutto il periodo hanno diritto ai 500 più 500, 1000 euro. La signora avrà diritto a 1000 euro facendo la domanda tramite patronato. Quali sono i paletti invece che stavo introducendo? Spieghiamoli molto dettagliatamente. Sì. Il primo più importante, questa misura è concessa solamente ai lavoratori non conviventi. Perché? Perché quando ci siamo visti e sentiti con il ministro il 6 di aprile, gli abbiamo rappresentato che oggettivamente i lavoratori conviventi abitando in quella famiglia difficilmente, se non per motivi stranissimi, avevano sospeso il rapporto di lavoro, essendo parte anch'essi della famiglia, quindi non c'erano problemi di contagio o perlomeno c'erano gli stessi problemi degli altri componenti della famiglia. Questi lavoratori che normalmente hanno continuato a lavorare non hanno diritto a percepire questa indennità. Gli altri paletti, uno assolutamente ovvio, non hai diritto a questa indennità se percepisci già un'altra indennità prevista dal decreto 18, che era quella per i commercianti, gli artigiani, i lavoratori autonomi, cococò, eccetera. Non hai diritto, come abbiamo detto prima, se hai avuto diritto al reddito di emergenza, e non hai diritto se hai già una pensione, se sei già percettore di una pensione, con eccezione del solo assegno ordinario di invalidità, per cui diciamo che la maggior parte hanno semplicemente una pensione, i pensionati sono esclusi dalla misura. Inoltre, inoltre questa misura non può essere percepita da un lavoratore che ha altri rapporti di lavoro non di tipo domestico. Mi spiego meglio, se un lavoratore ha 4 rapporti di lavoro domestico perché lavora per 4 famiglie, Non è che può fare 500 per 4. Ne fa una sola, ecco, di domande, ma ne ha diritto. Nella sfortunata ipotesi che abbia 2 rapporti, uno di 20 ore con una famiglia e magari uno di 20 ore con un bar, ristorante o altro attività lavorativa di tipo imprenditoriale, quindi sia nella gestione aziende dell'INPS, non ha diritto a questa misura. Ma magari ne sta prendendo un altro di ammortizzatore, esatto, sociale, quindi speriamo che questa... Infatti è questa. È la non duplicazione. Senta, per quello che sappiamo fino a questo momento abbiamo in ballo questa, questo riconoscimento per 2 mesi, giustamente, anche perché adesso tutto sta riprendendo gradualmente la normalità, quindi oppure voi pensate che possa esserci un ulteriore contributo anche per il mese di giugno? Ma noi riteniamo che non ci sia più questo problema, le famiglie sono state quelle che più hanno continuato, fra virgolette, il loro trend, magari con le limitazioni del dover stare in casa, della limitazione degli spostamenti, eccetera, ma non si sono mai fermate, voglio dire, la vita è continuata per tutti, il cibo, la pulizia, eccetera. Quindi credo che effettivamente il fatto che abbia coperto, copra solamente aprile-maggio, sia abbastanza logico. Non è questo il punto vero, sì, che potrebbe rivelarsi problematico, ma non solo per il lavoro domestico, è la perdita del posto di lavoro del datore di lavoro. Quindi è evidente che se ci sarà nelle famiglie una diminuzione di reddito dovuta alla perdita del rapporto di lavoro, compensata peraltro rispetto ai fini per cui è assunto un lavoratore domestico da una disponibilità di un componente della famiglia nel gestire le incombenze affidate a un lavoratore domestico, è evidente che ci potranno essere dei licenziamenti per crisi, non per Covid, per crisi economica. Qui non abbiamo molto da dire al momento perché da questo punto di vista la NASPI, lo strumento normale per questa situazione di licenziamento, di cessazione del rapporto di lavoro, è sempre esistita anche, certo, per il nostro settore. Senta Zini, un altro paio di domande. Allora, ricordiamo, non mi ricordo se lei l'ha detto nei primi passaggi, questa indennità non concorre alla formazione del reddito. Esatto, è un importo netto che viene percepito e non è da... Non so se non sia da dichiarare, ma comunque lo Stato lo conosce già perché è erogato dallo Stato, esatto. E quindi eventualmente nel 730 precompilato sarà indicato. Nel caso sarà indicato. Viene attribuito direttamente con, chiaramente lo decide il lavoratore come prenderlo, come percepirlo, verrà debitato su un conto corrente se indicato, ci sono delle alternative oppure, nel caso? Sì, può essere richiesto il fermo posta presso un ufficio postale, quindi adesso le leggo esattamente la definizione. Perché noi andiamo in onda con tutte le carte sotto, perché non è che abbiamo la capacità di essere dei maghi. No, ma guardi, adesso magari lo personale o bonifico domiciliato presso ufficio postale. Insomma, mi pare di aver detto tutto, tranne una cosa importante, che ancora oggettivamente ci mancano le istruzioni che devono essere diramate dall'INPS. Sicuramente sarà l'INPS il soggetto erogatore, ovviamente premunitevi, dico a tutti i lavoratori interessati, ecco, e alle famiglie molto spesso per i lavoratori, contattare il vostro normale punto di riferimento per la gestione delle paghe, e se vuole posso dare anche il nostro numero verde. Ma volentieri, ma... come no, per noi siamo sempre per il servizio per i nostri ascoltatori, volentieri, certo. Grazie. Se allora, accettate di riceverne a centinaia, noi ve le giriamo volentieri, se no arrivano a noi. Grazie, il numero è 800 162 261. oppure una mail a richieste@sendatcor.it. E poi c'è sempre la cara e vecchia @radio24. Noi ci incarichiamo di girarla a voi. Senta, un'ultima domanda, perché me l'ha girata adesso Marco Lombardo. È una mail arrivata da un'ascoltatrice che chiede: ho ricevuto dall'INPS, come ogni anno, i 4 bollettini prestampati per il versamento trimestrale dei contributi della mia collaboratrice familiare, ma questa, come molte altre, non ha lavorato ad aprile, tornerà da me a giugno. E quindi, ecco, per le persone che si interrogano se versare regolarmente i contributi, mi pare che ci sia stato qualcosa di stabilito anche in questo senso. Possono rinviare il pagamento, il versamento, o sono ancora obbligati a farlo nei termini? Il pagamento del primo trimestre può essere rinviato, se non è già stato fatto, al mese di giugno, fine mese giugno. Del secondo trimestre non c'è traccia di rinvio, perché il secondo trimestre scade il 10 di luglio. La cosa che però consiglio alla signora e a tutti gli ascoltatori è il bollettino postale precompilato, il pago PA a questo punto, precompilato dell'INPS, è un bollettino che rappresenta una situazione normale, cioè gennaio, febbraio, marzo lavorati regolarmente. Non fate questo errore quando ci sono delle malattie, ma in questo caso quando c'è una sospensione del rapporto di lavoro, di pagare quel bollettino, perché in realtà i contributi sono dovuti solamente sulle ore di lavoro prestato e quindi vanno ridotti. Questa cosa qua, se non siete in grado, appunto, rivolgetevi a un'associazione dei datori di lavoro, qual è la nostra, ma non pagate più di quello che dovete. Altra avvertenza molto importante. 10 secondi, Zini, sì? Sì. Nel bollettino dell'INPS normalmente non c'è il codice F2, il codice F2 serve per pagare i contributi a Cassa Colf, che dà delle ottime prestazioni ai lavoratori. Benissimo, Alessandra, si rivolga ad Assin.Colf e le metteremo nero su bianco la risposta di cui lei ha bisogno. Grazie ad Andrea Zini, buona giornata, tanto ci ritroveremo presto quando avremo il nero su bianco delle istruzioni per questi casi. Io invece rinvio l'appuntamento con me a stasera a Focus Economia. A tutti, buona giornata.